Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Martedì sera abbiamo imparato a conoscere un possibile concorrente del solare fotovoltaico, il solare termoelettrico. A me piace di più chiamarlo termovoltaico per non fare confusione. Come abbiamo visto, si tratta di una tecnologia che converte direttamente il calore in elettricità senza bisogno di ricorrere a parti in movimento, esattamente come nel caso del fotovoltaico. Le due tecnologie inoltre hanno in comune molte materie prime e anche per molti versi il processo produttivo. Infatti anche nel caso del termovoltaico parliamo di un sottile strato formato da un sandwich di materiali semiconduttori. Dei due lati, uno viene riscaldato ad alta temperatura, l'altro viene mantenuto a temperatura più bassa, ed è proprio sfruttando questa differenza di temperatura che le celle termovoltaiche producono energia elettrica. Ma non solo, energia elettrica e calore, ed è questa una prima invece fondamentale differenza tra fotovoltaico e termovoltaico, cioè una produzione di calore che è sempre inevitabilmente associata a quella elettrica. È qui che ci siamo fermati a inizio settimana e da qui che riprendiamo questa sera la conversazione con Fabio Inzoli, che ricordo a tutti voi è professore del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano, dove insegna fisica tecnica industriale. Buonasera Inzoli, bentornato. Buonasera a lei. Dunque, la prima cosa che volevo chiederle è questa. In prospettiva, in un confronto diretto fra termovoltaico e fotovoltaico, ci sono anche solo dei campi di applicazione in cui il termovoltaico può risultare superiore? Allora, per sua natura queste soluzioni si prestano bene per sistemi di cogenerazione, cioè sistemi nei quali io devo produrre contemporaneamente energia termica ed energia elettrica. Per queste tipologie di sistemi la possibilità di modulare la produzione di energia termica e la produzione di energia elettrica semplicemente gestendo le temperature può essere un aspetto abbastanza positivo. L'altro aspetto che io reputo interessante è la modularità, nel senso che la soluzione, come peraltro quella fotovoltaica, è estremamente modulare. Per contro, oggi le efficienze che si riescono a ottenere sia dal punto di vista termico, diciamo, sono abbastanza buone, dal punto di vista elettrico sono relativamente basse, ma comunque sono efficienze importanti. Secondo lei, dal punto di vista industriale, dai processi di produzione fino alla reperibilità delle materie prime, questo termovoltaico può avere qualche vantaggio sul fotovoltaico? Allora, in linea di principio direi di no, nel senso che la frontiera oggi delle celle fotovoltaiche, come del termovoltaico, diciamo così, del termoelettrico, è legata all'utilizzo di materiali nanostrutturati, quindi all'utilizzo di materiali di nuova concezione che impiegano tra l'altro sostanzialmente le stesse materie prime, come parliamo di telluro di bismuto per il termoelettrico e telluro di cadmio per il fotovoltaico. Quindi certo, abbiamo le stesse tecnologie che possono dare in ambedue i casi grossi vantaggi. Il grosso della ricerca oggi è in questo settore, cioè nella messa a punto di processi industriali per la produzione di celle fotovoltaiche da una parte o di moduli termoelettrici dall'altra. Dunque, sappiamo che questa tecnologia basata sull'effetto Seebeck è ben conosciuta ed è anche utilizzata da un po' di tempo in ambiti abbastanza speciali. Ci può fare qualche esempio di applicazione? La tecnologia è in uso già dalla seconda metà del secolo scorso, potremmo dire, cioè dopo il 1970 circa. Le applicazioni principali comunque sono nel settore aerospaziale, principalmente e soprattutto nell'alimentazione di satelliti interplanetari. Quando mi allontano dal sole e non ho più a disposizione tecnologie quali il fotovoltaico, allora devo ricorrere a soluzioni differenti per la produzione di energia elettrica. Tipicamente si utilizzano radioisotopi, quindi una pila nucleare, e per la produzione di energia elettrica si usano celle basate sull'effetto Seebeck. Hanno il grosso vantaggio di essere abbastanza ridotte come dimensioni ed avere un'affidabilità elevata, che è condizione ovviamente fondamentale. Quindi in pratica la fonte solare, rispetto all'esempio che facevamo ieri, viene sostituita da una fonte nucleare, ma nucleare. È sempre calore che viene trasformato con lo stesso identico principio in elettricità. Ecco, invece, applicazioni che sono in arrivo, quando vedremo al di fuori di questi ambiti molto particolari, presumibilmente al lavoro, queste celle basate sull'effetto Seebeck? Allora, ci sono anche altre applicazioni abbastanza comuni. Nella gestione dei gasdotti o degli oleodotti esistono situazioni che consentono una produzione di energia elettrica in loco, utilizzando energia termica che può arrivare direttamente dalla combustione, quindi senza dover necessariamente utilizzare cavi elettrici, per alimentare sistemi di gestione, di sicurezza, di controllo. Quindi piccole potenze in questo caso. Parliamo di potenze di qualche centinaio di watt. Okay. E poi, se vogliamo, applicazioni un po' più vicine a quelle che potrebbero essere l'esperienza di tutti i giorni, nel settore dei trasporti c'è un progetto che è finanziato dal DOE americano per il Department of produrre Energy. Energia elettrica utilizzando la potenza termica legata ai gas di scarico. I progetti che io ho visto sono più che altro settore auto e qualcosa nei mezzi pesanti, cioè truck e camion, dove la potenza generata è di qualche centinaio di watt, fino al limite anche, esistono situazioni, applicazioni sperimentali che producono anche un kilowatt e che, sulla base appunto di quello che viene dichiarato, dovrebbero consentire un risparmio del 3, 4, anche 5% del consumo di carburante. C'è poi, se mi permetto, un'ulteriore applicazione un po' più, diciamo, folcloristica, chiamiamola così, c'è un orologio che è in commercio, un orologio da polso che utilizza una celle di tipo Seebeck per la produzione di energia elettrica e viene alimentato dal calore del corpo. Grazie professor Fabio Enzoli. Grazie a lei e saluti a tutti.